Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Mosca fece questo serissimo discorso il giorno dopo il ritorno di Fabrizio a Palazzo San Severina. Gina era ancora tutta sconvolta dall'allegria che Fabrizio metteva in tutto quel che faceva. Ecco, pensava, mi ha ingannata quella santarellina. Non ha saputo resistere al suo amante neanche per 3 mesi. Alle 10:30 Gina saliva in carrozza e partiva per Bologna. Appena passato il confine scrisse a Mosca: «Il sacrificio è consumato. Per almeno 1 mese non chiedetemi di essere di buon umore. Non vedrò più Fabrizio. Vi aspetto a Bologna. Quando volete sarò la contessa Mosca. Vi chiedo solo una cosa, non cercate mai di costringermi a tornare a Parma e ricordatevi che invece di 150.000 lire di rendita ne avete 30 o 40 al massimo. Fino a ora tutti gli imbecilli stavano a rimirarvi a bocca aperta, ma d'ora in poi sarete presi in considerazione soltanto se accetterete di abbassarvi a capire le loro ideucce limitate. L'hai voluta tu, Georges Dandin». Il matrimonio fu celebrato 8 giorni dopo, a Perugia, nella chiesa in cui erano sepolti gli antenati di Mosca. Dopo quello che era successo al ballo di corte, una scena che aveva proprio l'aria di essere decisiva, sembrò che Clelia non si ricordasse più di quell'amore cui per un attimo sembrava aver corrisposto. Il fatto è che, virtuosa e devota com'era, stava provando un terribile rimorso. Fabrizio lo capiva benissimo e, benché si sforzasse di convincersi a sperare, era ripiombato in una cupa malinconia. Ma questa volta non andò in ritiro, come al tempo del matrimonio di Clelia. Fabrizio aveva molto da fare. Monsignor Landriani, che aveva compiuto 72 anni, era in uno stato di estrema prostrazione e non usciva quasi più, e toccava al coadiutore sostituirlo praticamente in tutto. Clelia, torturata dai rimorsi, terrorizzata dal suo direttore spirituale, aveva trovato un ottimo sistema per sottrarsi agli sguardi di Fabrizio. Con la scusa che stava per nascerle un figlio, si era chiusa nel suo palazzo come in una prigione. Ma il palazzo aveva un parco immenso. Fabrizio riuscì a penetrarvi e, lungo il viale preferito da Clelia, mise dei mazzi di fiori disposti in un certo ordine, in modo da costituire una specie di linguaggio, come lei gliene aveva mandati tutte le sere durante gli ultimi giorni della sua prigionia alla Torre Farnese. Clelia, divisa tra gli impulsi della passione e i rimorsi, fu molto irritata da quel suo tentativo. Stette dei mesi senza scendere una sola volta nel parco. Evitava persino di guardare da quella parte. Fabrizio incominciava a pensare che la loro separazione fosse ormai definitiva e stava per cedere di nuovo alla disperazione. Detestava l'ambiente in cui viveva. Se non fosse stato intimamente convinto che Mosca non avrebbe mai potuto trovare il suo equilibrio, stando lontano dalla vita politica, si sarebbe chiuso in ritiro nel suo appartamentino all'arcivescovato. Sarebbe stata una consolazione poter vivere solo con i suoi pensieri, non sentir più gente che parlava, una volta sbrigati i suoi impegni ufficiali. «Ma non posso», pensava. «Mosca e Gina hanno bisogno di me. Nessuno può sostituirmi». Dato che il principe continuava a trattarlo con tutti i riguardi, la sua posizione a corte era di prim'ordine. E questo successo Fabrizio lo doveva soprattutto a se stesso. Quel suo estremo riserbo, fondato in realtà su un'indifferenza che arrivava fino al disgusto per la mediocrità dei sentimenti e delle passioni di cui è piena la vita degli uomini, aveva stimolato la vanità del giovane principe. Lo diceva sempre lui. Fabrizio era intelligente, come sua zia. Quell'anima candida del principe riusciva a rendersi conto solo in parte di come stavano le cose. Capiva, è vero, che l'atteggiamento di Fabrizio nei suoi confronti era diverso da quello di tutti gli altri cortigiani, ma non ne intuiva le ragioni. Un fatto che non poteva sfuggire a nessuno è che i riguardi usati a Fabrizio erano del tutto sproporzionati alla sua posizione di semplice coadiutore e superavano addirittura quelli che il sovrano usava all'arcivescovo. E Fabrizio scriveva a Mosca: «Penso proprio che un giorno o l'altro il principe ricorrerà proprio a me per tastare il terreno senza esporsi troppo, sempre naturalmente che sia abbastanza furbo da rendersi conto di come stanno andando a rotoli i suoi affari con ministri come Rassi, Fabio Conti, Zurla e altri della stessa risma». A Gina poi Fabrizio scriveva: se non ci fosse di mezzo quel fatale epiteto, quel ragazzo, di cui una volta un uomo di genio si è servito per definire un augusto personaggio, l'augusto personaggio in questione si sarebbe già affrettato a dire: tornate prima che potete e levatemi dai piedi questi morti di fame. Già fin da adesso, comunque, se la moglie del nostro uomo di genio si degnasse di fare un passo qualsiasi, anche una cosa da niente, Mosca sarebbe richiamato con grande entusiasmo, ma l'accoglienza sarà molto più sontuosa se aspetta che il frutto sia maturo. Quanto al resto, nei salotti della principessa ci si annoia, che è una meraviglia. L'unica cosa divertente sono le follie di Rassi. È diventato un maniaco di nobiltà da quando è conte. Hanno emanato ordini severissimi perché nessuno osi presentarsi, sono le parole dell'ordinanza, alle serate della principessa se non può dimostrare di avere i suoi bravi quarti di nobiltà. Lettere del genere, naturalmente, non erano certo spedite per posta. Gina rispondeva da Napoli: il giovedì diamo un concerto e la domenica riceviamo. C'è tanta gente che non si riesce neanche a muoversi nei nostri salotti. Mosca va matto per i suoi scavi, ci spende 1.000 franchi al mese e ha fatto venire da certi paesini di montagna in Abruzzo degli scavatori che gli costano soltanto 23 soldi al giorno. Dovresti proprio venire a trovarci. Guarda che è un ordine, ma è la 100ª volta che te lo fai dire. Mostro di ingratitudine che non sei altro. Fabrizio non ci pensava neanche a obbedirle. Gli sembrava già un impegno insopportabile dover scrivere tutti i giorni a lei o a Mosca, ma possiamo perdonarglielo. Era passato un anno e lui non aveva neanche potuto parlare una volta con Clelia. Tutti i suoi tentativi per entrare in comunicazione con lei erano stati respinti con orrore. Quando non era a corte o all'arcivescovato per i suoi impegni di lavoro, Fabrizio, annoiato della vita, continuava a non parlare con nessuno. E questo fatto, unito alla sua assoluta moralità, aveva finito per suscitargli intorno una straordinaria venerazione. E le cose erano arrivate a un punto tale che dovette decidersi a seguire il consiglio della zia. Decise di darsi alla predicazione e il successo, favorito anche dalla sua magrezza, dal suo abitino un po' liso, fu strepitoso. Grazie a quell'ombra di profonda tristezza che c'era in fondo alle sue prediche e alla sua bellezza e alla fama della sua posizione a corte, finì per conquistare tutte le donne. Le sue ammiratrici raccontavano che lui era stato uno degli ufficiali più valorosi dell'esercito di Napoleone e in poco tempo questa invenzione diventò un fatto inoppugnabile. Nelle chiese in cui doveva predicare, molti mandavano avanti un loro incaricato per tenergli il posto. Per i poveri era un affare, si piazzavano sui banchi fin dalle 5 della mattina. Fu un successo così clamoroso che alla fine Fabrizio fu portato a pensare che forse anche Clelia sarebbe venuta a sentire una delle sue prediche, se non altro per pura curiosità. Da quel momento tutto cambiò profondamente dentro di lui. I suoi ascoltatori si accorsero di colpo che era diventato ancora più bravo. Quando era commosso, azzardava immagini straordinarie, tali da far tremare gli oratori più esperti, e certe volte sembrava che dimenticasse tutto, anche se stesso, e si abbandonava appassionatamente all'ispirazione, e tutti quelli che lo ascoltavano piangevano. ma inutilmente il suo occhio aggrottato cercava in mezzo a tutte quelle facce rivolte verso il pulpito quella la cui presenza avrebbe costituito per lui un avvenimento così importante. Ma se la vedo, pensava, mi sentirò male o non riuscirò più a dire una parola. E allora aveva scritto una specie di preghiera tenera, appassionata, e quando predicava si teneva sempre vicino quel foglio su uno sgabello, in modo da poterlo leggere quando alla vista di Clelia si fosse sentito incapace di continuare la predica. Un giorno, certi domestici del marchese, gente che lui aveva assoldato, gli dissero che finalmente era stato dato l'ordine di preparare il palco di Casa Crescenzi al teatro municipale. Era un anno che Clelia non andava più a nessuno spettacolo, ma ora aveva deciso di derogare alle sue abitudini per un tenore che faceva furore e riempiva tutte le sere il teatro. Fabrizio ne fu felice. «Potrò guardarla per tutta una sera, finalmente». Mi hanno detto che è così pallida e cercava di immaginarsi quella faccia incantevole, scolorata da tormentose incertezze. Ludovico, tutto impressionato da quella che secondo lui era una vera pazzia, riuscì con molta difficoltà a prenotare un palco di quarta fila, quasi di fronte a quello di Clelia. Poi a Fabrizio venne un'idea. Forse riesco a farla venire alla predica. Bisogna che la chiesa sia molto piccola, così sarò sicuro di poterla vedere bene. Di solito Fabrizio teneva la sua predica alle 3, ma il giorno in cui Clelia doveva andare a teatro fece annunciare fin dal mattino che a causa di certi suoi impegni all'arcivescovato la predica sarebbe stata tenuta alle 8:30 di sera nella chiesetta di Santa Maria della Visitazione, proprio di fronte a un'ala di Palazzo Crescenzi. E Ludovico portò una massa enorme di candele alle suore della Visitazione perché illuminassero a giorno tutta la chiesa. Arrivò anche un'intera compagnia di granatieri della guardia e per impedire ogni tentativo di furto furono messe sentinelle baionetta in canna davanti a tutte le cappelle. Benché la predica fosse in programma per le 8:30, alle 2 la chiesa era già piena zeppa. E naturalmente dalla strada fuori mano, dominata dalla nobile facciata di Palazzo Crescenzi, veniva un baccano indescrivibile. Fabrizio aveva fatto annunciare che in onore di Nostra Signora della Misericordia il tema della sua predica sarebbe stato questo: come le anime generose debbano aver compassione di un infelice, anche se è colpevole. Travestito in modo da essere irriconoscibile, Fabrizio arrivò nel suo palco subito dopo l'apertura del teatro, quando in platea i lumi erano ancora spenti. Lo spettacolo incominciò verso le 8 e dopo pochi minuti Fabrizio provò una gioia immensa, una gioia che non si può concepire se non la si è provata. Vide aprirsi la porta del palco di Casa Crescenzi e poi entrò Clelia. Era da quando lei gli aveva dato il ventaglio che non aveva potuto guardarla così. Gli sembrava di soffocare dalla gioia. Era così paurosamente sconvolto che pensò: forse sto per morire. Sarebbe un modo meraviglioso di finire questa vita così triste. Ecco, forse adesso cadrò in terra, qui, in questo palco, e tutti i fedeli in chiesa non mi vedranno arrivare, e domani sapranno che il loro futuro arcivescovo è arrivato al punto di nascondersi in un palco dell'opera, travestito da domestico, con indosso una livrea. Addio reputazione. Ma per quello che me ne importa della reputazione. Verso le 8:15, comunque, Fabrizio fece uno sforzo su se stesso, lasciò il palco e a piedi, penosamente, andò a cambiarsi d'abito. Quando arrivò alla chiesa della Visitazione, erano già le 9. Era talmente pallido, in uno stato di tale debolezza, che in chiesa tra la gente incominciò a correr voce che quella sera il signor coadiutore non avrebbe potuto predicare. Lui andò a rifugiarsi accanto alla grata in parlatorio. Le suore si davano naturalmente un gran da fare per confortarlo, non la smettevano di parlare. Fabrizio chiese che lo lasciassero solo per un momento, poi salì sul pulpito. Alle 3 uno dei suoi assistenti gli aveva detto che la chiesa era già piena di gente, ma che erano quasi tutti poveracci attirati da quella gran luminaria. Ma ora, affacciandosi al pulpito, Fabrizio poté vedere che le sedie erano tutte occupate dai giovani più in vista e da personaggi importanti. Incominciò la predica scusandosi per il ritardo e le sue parole furono accolte da affettuose proteste. Poi venne la descrizione appassionata dell'infelice per il quale bisogna provar compassione, onde onorare degnamente la madre della misericordia che tanto ha dovuto soffrire su questa terra. Il predicatore era molto commosso. In certi momenti riusciva appena a parlare in modo da poter essere sentito da tutti in quella piccola chiesa. Per le donne e anche per molti uomini era come se fosse lui l'infelice da compassionare, tanto era pallido. Dopo un po' la gente si rese conto che quella sera Fabrizio era diverso dal solito. C'era in lui una malinconia più profonda, una commozione più intensa. Aveva le lacrime agli occhi adesso e subito tutti incominciarono a piangere, a singhiozzare così forte che la predica dovette interrompersi. Ce ne furono molte altre di interruzioni. Si sentivano grida di ammirazione, scoppi di pianto. «Santa Madonna!» gridavano. «Addio!» Erano tutti così commossi, incapaci di dominarsi, che nessuno aveva vergogna di mettersi a gridare e nessuno rideva di quelle grida. Durante l'intervallo che è d'uso fare a metà della predica, dissero a Fabrizio che a teatro non c'era più nessuno, soltanto una signora era rimasta nel suo palco, la Marchesa Crescenzi. Intanto dalla chiesa si sentiva venire un gran rumore di voci. Erano i fedeli che decidevano per acclamazione di far erigere una statua al signor coadiutore. La seconda parte della predica ebbe un successo folle, ma sembrava addirittura un successo mondano. Gli slanci di cristiana contrizione lasciarono il posto a grida di ammirazione profana, e Fabrizio, prima di lasciare il pulpito, si sentì in dovere di fare una specie di reprimenda al suo uditorio. Uscirono dalla chiesa tutti insieme, adagio, con una strana calma. E una volta fuori, tutti si mettevano a applaudire furiosamente, a gridare «Viva del Dongo!». Dopo qualche minuto, mentre la gente stava ancora gridando, accadde ciò che Fabrizio aspettava così ansiosamente. La carrozza della Marchesa, di ritorno dal teatro, imboccò la strada. Il cocchiere fu obbligato a fermarsi e solo a furia di grandi urla riuscì a arrivare al passo fino al portone del palazzo. Come capita sempre a chi soffre, Clelia si era molto commossa a sentire quella musica sublime, ma si era commossa ancora di più quando aveva saputo il motivo per cui il teatro si era vuotato. Durante il secondo atto, infatti, e proprio mentre era in scena quel meraviglioso tenore, persino gli spettatori che stavano in platea erano corsi via per vedere se gli fosse riuscito di entrare nella chiesa della Visitazione. E adesso, in quella carrozza ferma in mezzo alla gente, davanti al portone, Clelia si mise a piangere. «Non avevo fatto una cattiva scelta», pensava. Ma fu proprio perché aveva avuto questo momento di abbandono che si convinse di dover resistere a ogni costo alle insistenze del marchese e degli amici. Loro non riuscivano a capire come mai non volesse assolutamente andare a dare un'occhiata a un predicatore così straordinario. Dopotutto, dicevano, ha più successo del miglior tenore che ci sia in Italia. Ma lei pensava, sono perduta se lo vedo. Non servì a niente che Fabrizio, il cui talento di oratore diventava sempre più brillante, tornasse ancora molte volte a predicare nella chiesetta vicina a Palazzo Crescenzi. Clelia non andò mai a sentirlo, anzi, finì per prendersela a male. Non era contento di averla costretta a non andare più nel parco. Adesso, con le sue ostentazioni, veniva anche a portare tutta quella confusione nella sua strada. Da parecchio tempo, guardando le facce delle donne che lo ascoltavano, Fabrizio aveva notato una bellissima brunetta dagli occhi scintillanti. Di solito, all'ottava o alla decima frase della predica, quegli splendidi occhi erano già pieni di lacrime. E quando durante la predica, in certi passaggi un po' lunghi, Fabrizio si annoiava, era con un certo piacere che riposava lo sguardo su quella bella faccia giovane. La ragazza, come lui poi venne a sapere, si chiamava Annetta Marini. Era figlia unica e erede del più ricco mercante di stoffe di Parma, morto pochi mesi prima. Dopo un po' ne parlavano tutti di questa Annetta Marini. Si era perdutamente innamorata di Fabrizio. Al tempo in cui quelle famose prediche erano incominciate, Annetta era fidanzata ufficialmente con Giacomo Rassi, primogenito del ministro della giustizia, e per la verità il giovanotto non le dispiaceva affatto. Ma dopo aver ascoltato un paio di volte Monsignor Fabrizio, lei aveva dichiarato improvvisamente che non voleva più sposarsi, e a chi le chiedeva le ragioni di quello strano cambiamento, rispondeva che non era degno di una ragazza onesta sposare un uomo mentre si sentiva perdutamente innamorata di un altro. I suoi parenti si misero a cercare chi potesse essere questo altro, e sulle prime non riuscivano a capirci niente. Ma poi quel gran piangere di Annetta alle prediche gli aveva fatto intuire la verità. La madre e gli zii le chiesero se era innamorata di Monsignor Fabrizio, e lei rispose audacemente che siccome avevano scoperto la verità non si sarebbe abbassata a mentire. Certo, aggiunse, non poteva sperare di sposarlo l'uomo che adorava, ma almeno non voleva più vedersi intorno quella macchietta del contino Rassi. Dopo un paio di giorni tutti parlavano di quella brutta figura fatta dal figlio dell'uomo più invidiato dall'intera borghesia della città, e tutti furono d'accordo nel dire che la risposta di Annetta Marini era stata proprio deliziosa, e se la citavano continuamente. Se ne parlò anche a Palazzo Crescenzi. Clelia si guardò bene dall'intervenire su questo argomento in salotto, però fece molte domande alla cameriera. E la domenica seguente, dopo aver sentito messa in cappella, salì in carrozza insieme alla cameriera e andò a sentire un'altra messa nella parrocchia della signorina Marini. C'erano tutti i belli della città in chiesa e naturalmente si trovavano lì per la stessa ragione. Stavano in piedi vicino alla porta e dopo un po' ci fu una certa agitazione fra di loro e Clelia capì che doveva essere arrivata la signorina Marini. Clelia era in ottima posizione per poterla osservare e, malgrado la sua devozione, finì per disinteressarsi completamente della messa. Un tipo di bellezza borghese, pensò. Secondo lei, però, quella rietta decisa andava bene al massimo a una donna sposata da parecchi anni. D'altra parte, era piccolina, ma anche molto ben proporzionata. E poi aveva certi occhi. Sembrava che parlassero, come dicono in Lombardia. Clelia scappò via prima della fine della messa. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it